24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 7:19 minuti, buongiorno cari ascoltatori, con il nostro Paolo Corleoni che mi guarda in regia, oggi ci accompagnerà fino alle 9. Orbene, di che parliamo nel nostro sondaggio alle 8:30? Vogliamo parlare di una cosa un po' leggera, un po' rilassante, la pausa lavoro, la pausa caffè, la pausa sigaretta. E perché attenzione, dal comune di Firenze, ma non è l'unico, il comune di Firenze, fai la pausa sigaretta, timbri il cartellino e poi recuperi i minuti di lavoro. E allora, che ne pensate? È giusto così? Fate la pausa sigaretta, come si comporta la vostra azienda? Ditecelo. Votate su radio24.it, ne parleremo poi alle 8:30. La pausa sul lavoro, devi timbrare il cartellino. Siete d'accordo? Ne parliamo più avanti. Ed ora tuffiamoci nella simpatica manovra sui giornali. In primo piano. In questo mercoledì 6 luglio, ebbene sì, la manovra finanziaria è ancora all'esame dei giornali, su tutti i titoli la norma ribattezzata salva Fininvest e poi tolta, certamente occupa ancora i titoli di prima pagina, ma vediamone alcuni. Il Sole 24 Ore si concentra ancora con uno speciale sulla manovra, 10 milioni di conti tassati dal Quirinale, 5 paletti per il sì, riscrittura sulle quote latte. E poi eccola qui. La norma appunto ribattezzata Pro Fininvest che prende le prime pagine dei giornali. Per il Corriere della Sera, cade la norma Pro Fininvest, questo è il titolo di apertura. Per Repubblica, lodo, Berlusconi si arrende. Per La Stampa, dietro front sulla salva Fininvest. Libero, poveri noi, che figuracce, Berlusconi costretto a rimangiarsi la salva Fininvest. Il Fatto Quotidiano mette invece un Berlusconi a un fotomontaggio con un assegno da 750 milioni, questa è la condanna in primo grado per la Fininvest, adesso paga, questo è il titolo del Fatto. L'Unità invece, del fotomontaggio anche qui, degli scacchi che cadono, uno è il re con la faccia di Berlusconi, scacco matto, alta Berlusconi, il premier costretto a togliere dalla manovra la norma salva Fininvest. Per il Messaggero, lodo dietro fronte di Berlusconi, vedete i titoli un po' fotocopia su questo tema. Il Manifesto titola invece sul comma salva Fininvest, ci ho provato, e c'è la foto di Berlusconi. Via un errore dalla manovra, anche il titolo dell'Avvenire in prima pagina, via la salva premier, ma il colle non basta, il titolo di apertura del Secolo XIX, mentre il Giornale è al secondo giorno dell'inchiesta, dove buttano i soldi, il titolo è così bruciano 600 milioni, pagare i 10.000 forestali calabresi e mantenere Venezia ci costa più di mezzo miliardo di euro l'anno. Allora, le segnalazioni da cui voglio partire. La prima la troviamo dal Corriere della Sera, l'ho trovata solo qui, è un'ipotesi su un evento che coinvolgerà il Papa. Vedrà protagonista il Papa nel 2012 a Milano. A pagina 20 del Corriere Paolo Foschini racconta di come domenica 3 giugno, che sarà il momento clou dell'incontro mondiale delle famiglie, in cui Papa Benedetto XVI celebrerà la messa, sono previste 500.000 persone, 500.000 partecipanti. Allora si è posto il problema: dove porre, dove mettere 500.000 fedeli che vogliono assistere alla messa? Eccolo il titolo del Corriere: l'aeroporto chiuso per la maxi messa del Papa a Milano. L'ipotesi è questa: chiudere Linate, cioè uno degli aeroporti di Milano, per 2 giorni per permettere la messa del Papa. Poi uno dice che Milano non ha spazi, racconta Paolo Foschini, e se per consentire a 500.000 di persone di incontrare il Papa l'anno prossimo non si trovasse altra soluzione che chiudere l'aeroporto di Linate per 2 giorni? È un'ipotesi, ok, per ora non lo sa neppure il ministro dei trasporti, il ministero, che attraverso l'ENAC è l'unico a poter autorizzare, ma certamente la più suggestiva tra le diverse messe in campo nelle ultime ore, alla luce del fatto che il luogo scelto inizialmente per questo grande evento, cioè lo stesso terreno destinato a ospitare l'Expo nel 2015, è stato ed è tuttora oggetto di troppe polemiche. E allora se ne è discusso, insomma, dove fare questa messa? C'è chi ha pensato l'ippodromo del Galoppo a San Siro. Beh, ma si può portare il Papa in un luogo di scommesse? Ci si è chiesti? Oppure il grande stradone che dalla stazione centrale arriva a Piazza della Repubblica, Milano? Ma anche in questo caso troppi palazzi esposti e incontrollabili. Insomma, sta di fatto che si profila tra le varie ipotesi quella della chiusura di 2 giorni nell'aeroporto di Linate per questa messa del Papa, 3 giugno 2012. La seconda segnalazione, ci sono vari articoli sui giornali, è una vicenda che riguarda un'intercettazione davvero da farabutti, si può dire così, se confermata, e odiosa anche, e che è avvenuta in Gran Bretagna e che rischia di mettere davvero sotto la lente di ingrandimento e nel ciclone vero e proprio, nella bufera, l'impero mediatico di Rupert Murdoch. Ombre sull'impero di Murdoch, sviato il caso della giovane uccisa, così titola il Corriere della Sera, mentre Repubblica ci dedica una pagina. Tabloid, VIP spiati, scoop a ogni costo, adesso il gossip finisce nella bufera. Di cosa si tratta? Vi dedica un articolo anche Il Foglio, in prima pagina, lo squalo e la bambina, un'intercettazione illegale di troppo fa tremare l'impero di Murdoch. Viene da Londra questa storia, riguarda Millie Dowler, una ragazzina di 13 anni scomparsa e poi trovata morta, brutalmente assassinata 6 mesi dopo. Il suo assassino è stato preso, è stato condannato all'ergastolo 9 anni dopo l'omicidio. Ma ieri il volto di Millie è tornato sulle prime pagine dei quotidiani, associati al nome di Rupert Murdoch. Lo squalo dei media lo definisce Il Foglio. Il tycoon che possiede TV e giornali, tra cui il tabloid News of the World. Ebbene, secondo un'inchiesta di Scotland Yard, all'epoca dei fatti, un giornalista di News of the World a caccia di informazioni entrò con un atto di hackeraggio nella segreteria telefonica del cellulare della ragazzina. L'ascoltò, poi si era accorto che non c'era più spazio per altri messaggi, dunque cancellò anche dei messaggi e a quel punto i genitori di Millie, che rimase scomparsa per vari mesi, si resero conto che la segreteria non era più piena, si riempirono di speranza, ci sta mandando un segnale, allora è viva, allora magari c'era qualcuno. Insomma, una azione giornalistica di pirateria per avere degli scoop, per ascoltare anche dei messaggi segreti, poi magari da pubblicare o comunque per raccogliere informazioni per poi scrivere articoli, ha gettato nella bufera il giornale. Allora diretto da Rebecca Brooks, definita dal Foglio una delle persone più vicine a Rupert Murdoch, consigliera amica, una tostissima odiatissima, arrestata perché ha picchiato il marito, una che ha scalato l'impero murdochiano schiacciando teste con i tacchi. Ora la ex direttrice di News of the World dice: io non sapevo nulla di quello che stava facendo quel giornalista, quel mio giornalista. Secondo il Guardian invece era la mandante. Sta di fatto che, insomma, Rupert Murdoch come editore si trova nella bufera per questa vicenda di un'intercettazione di un atto di hackeraggio davvero odioso per raccogliere notizie sulla scomparsa di questa ragazzina. Lo squalo e la bambina, titola così Il Foglio in prima pagina. In primo piano. Alle 7:34 minuti, eccoci nuovamente qui. Allora, il dato di fatto è che questa norma, ribattezzata da tutti i giornali per semplificazione, per i titoli, salva Fininvest, è stata tolta dalla manovra. È durato un giorno questo giallo, vale a dire è quella norma che prevede, in caso di condanne per in sentenza civile di pagamenti fino a 10 milioni in primo grado e 20 milioni in secondo grado, da questi pagamenti in su, il giudice ha l'obbligo di sospendere l'esecuzione del pagamento fino alla Cassazione, fino all'ultimo grado di giudizio. Allora, a nessuno è sfuggito il fatto che sabato, forse, chissà, comunque è attesa a giorni la sentenza d'appello nel caso Lodo Mondadori, tra la CIR e la Fininvest. In primo grado la società di Berlusconi è stata condannata a pagare 750 milioni di euro, quindi con questa norma sarebbe stato bloccato un'eventuale condanna in appello, il pagamento. È stata ritirata questa norma. Il Sole 24 Ore, pagina 2, Lina Palmerini racconta questa giornata, ritira la salva Fininvest, Berlusconi, una norma giusta ma la revochiamo. Ora intanto c'è il giallo di questi 48 ore, si può dire, no? Intanto c'è lo sfogo di Berlusconi che, secondo Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, dice: allora io voglio una fideiussione, la dovrò ricevere, non dare. Se dovessi essere condannato sarà una cosa che pretenderò a costo di fare un altro provvedimento. Perché questo dice Berlusconi: che succede se poi la Cassazione alla fine mi darà ragione, mentre l'appello mi dovesse condannare? Cioè, io pago 750 milioni di euro, quanto è il giudizio, e poi se dovessi ottenere in terzo grado di giudizio invece l'annullamento per esempio della sentenza, chi mi ridà indietro i soldi, chi mi dà la garanzia che De Benedetti mi ridarrà dietro i soldi? Questa è la questione che ora preme di più a Berlusconi. E poi c'è tutto il retroscena politico. Intanto, secondo il Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, è stata soprattutto la pressione della Lega. La Lega chiamò il Colle, non ne sapevamo nulla, pronti ad aprire la crisi. È stata la Lega, insomma, a dire a questo punto una vicenda che ci imbarazza. Questo avrebbe detto Maroni ai suoi. Sono tutti retroscena, perché dichiarazioni pubbliche non ce ne sono. Ci dobbiamo accontentare del titolo della Padania, il giallo Mondadori. La Lega mostra stupore e malumore. E poi il ritiro del provvedimento. Maroni avrebbe detto appunto ai suoi, è l'ennesima volta che ci troviamo di fronte a una legge che i cittadini non possono comprendere, ma soprattutto che noi non possiamo in alcun modo far passare. Insomma, questa ira della Lega, che sarebbe stata aggirata nella presentazione di questa manovra, di questo codicillo nella manovra, avrebbe portato alla sponda con il Quirinale. Addirittura si parla di un colloquio a margine del funerale del militare italiano ucciso in Afghanistan tra Calderoli e Napolitano, nel quale Calderoli avrebbe detto al capo dello Stato che la Lega su questo sarebbe stata pronta a staccare addirittura la spina del governo. Al governo, tra l'altro, Rodolfo Sala su Repubblica intervista Flavio Tosi, leghista, sindaco di Verona, rospo troppo grosso da ingoiare, vedremo se si può andare avanti. Così dice Tosi. In Parlamento si sarebbe aperto uno scontro clamoroso su questa norma, dagli esiti imprevedibili. Di sicuro non avremmo fatto come l'altra volta, quando il governo pose la fiducia per salvare Cosentino. So benissimo quanto malvolentieri i nostri la votarono. Basta, abbiamo già dato. Le vicende personali di chi ricopre incarichi pubblici non possono avere a che fare con provvedimenti di carattere generale. Insomma, un Tosi molto duro. Che alla domanda, ma la maggioranza può andare avanti così, dipende dai fatti concreti. Vedremo se si riusciranno a dare risposte convincenti ai problemi della gente. E poi c'è tutto il giallo di chi abbia partorito queste tre righe, queste modifiche al codice civile che hanno suscitato 48 ore di putiferio politico. Perché allora, per Repubblica, Nicolò Ghedini ha fatto sapere in giro di non saperne nulla. Per Repubblica, tra l'altro, Berlusconi è arrabbiatissimo. Sono da solo a combattere contro il Quirinale. Questo è il titolo del retroscena di Francesco Bei. Per Amedeo La Mattina, sulla Stampa, la furia del cavaliere isolato è un agguato di Tremonti. Eccolo lì che torna, rispunta la mai sopita diatriba tra Berlusconi e Tremonti. L'agguato di Tremonti sarebbe stato questo, che Tremonti avrebbe messo la firma all'ultima versione della manovra, dunque sapeva che c'era questa norma, e poi avrebbe avvertito Napolitano della presenza della norma e ne avrebbe preso le distanze dicendo di non saperne nulla. Ecco, questo sarebbe il retroscena secondo alcuni, cioè proprio un vero e proprio agguato. Anche per il secolo XIX, sentite il virgolettato, uno sfogo attribuito a Berlusconi: la spia è Giulio, ormai lavora per l'opposizione. Ma Letta poi lo convince, così crolla tutto e lo convince a ritirare la manovra. E così Francesco Verderami anche sul Corriere fa, sotto il titolo Sospetti e veleni sul comma cancellato, un vero e proprio racconto delle ultime 48 ore. Ecco la storia segreta della norma. Certo, dice Francesco Verderami, quando ci fu nel pre-consiglio dei ministri quella sospensione nella quale tutti i giornali scrissero si doveva approfondire il tema costi della politica, in realtà, scrive Verderami, si trovò un'intesa, ma il consiglio non riprese subito perché nel salone di Palazzo Chigi mancavano all'appello Berlusconi e Tremonti. E secondo Verderami è lì, in quel momento, in cui discutono i due di questa norma cosiddetta salva Fininvest. Di certo, scrive Verderami, una cosa è certa, Tremonti sapeva. Il resto sono accuse che Berlusconi gli rivolge contro, intingendo l'ira nel sospetto. Chiedetevi chi ci guadagna da questo disastro, urlava ieri sera Berlusconi puntando l'indice contro il padre di una manovra che ci ha fatto perdere il gradimento del 65% del nostro elettorato. Se pensa di arrivare così a Palazzo Chigi, ancora virgolettati attribuiti a Berlusconi, può scordarselo. Così Berlusconi avrebbe parlato di Tremonti. E insomma, sta di fatto che questo della manovra è davvero un bel giallo. Lo stesso risolto almeno tecnicamente, nel senso che è stata tolta, ma il giallo è perché e da chi sia stata partorita. Le parole più gentili, vedete, sono sospetti, veleni, complotti, trame, agguati che girano sui giornali. Che figuracce, titola così Libero, e c'è da dire che sia Libero che il giornale sono giorni, soprattutto Libero, che criticano in maniera abbastanza esplicita questa manovra, cioè giornali di certo non lontani dalle posizioni del governo. Che figuracce, titola Maurizio Belpietro, fa un editoriale in prima pagina, il modo in cui si è fatto questo, che è definita da Belpietro una norma comunque giustissima nel principio, il modo in cui si è fatto, i tempi sono decisamente sbagliati, ha suscitato tutto un tal baccano da costringere il governo a una marcia indietro, il risultato è una figuraccia che non serve a nessuno, o peggio, serve a chi interessa a mandare a gambe all'aria questa maggioranza. Non sappiamo chi siano i consiglieri che hanno suggerito al premier il provvedimento, ma nei suoi panni li licenzieremmo subito. E questo per quel che riguarda la manovra. Sulla questione norma salva Fininvest. Tra l'altro io voglio ricordare che il Sole 24 Ore anche oggi continua questo focus sulla manovra, pagine e pagine per capire questa manovra che ormai è arrivata a pari a 50 miliardi, e oggi il Sole titola in prima pagina su un tema sul quale si concentrano anche tutti i vari giornali, ne avevamo parlato anche ieri, che è quello dei conti tassati. Allora, 10 milioni di conti tassati. Così titola il Sole 24 Ore in prima pagina. Vale 8 miliardi il bollo sui depositi titoli per i piccoli risparmiatori. Posso aprire una parentesi personale di 2 secondi? Secondo voi chi è l'unico pirla che 5 giorni prima di questa manovra ha preso dei bot? Avete indovinato. Va bene, ma eviterò di parlare di cose personali, mi limito ovviamente alla questione dei titoli dei giornali. Dal bollo sui depositi titoli 8 miliardi, interessati 10 milioni di conti, così Marco Mobili a pagina 3. Dall'aumento progressivo dell'imposta di bollo, eccola qua, destinata a colpire i circa 10 milioni di correntisti in possesso di un deposito titoli, che il governo drenerà la quota più consistente delle entrate attese nella manovra di pareggio per gli anni 2011-2014. Infatti, una manovra che ha un impatto sul deficit nei 4 anni di 43,398 miliardi, questi gli ultimi dati per il Sole 24 Ore. Interessati sono 10 milioni di conti, e infatti vedete anche Repubblica, la super tassa sui bot, chi investe 10.000 euro perde 3/4 del reddito, e anche qui Libero, vedete Libero, il governo farà pagare 9 miliardi ai risparmiatori, ecco quanto vale l'aumento dell'imposta su chi ha un dossier titoli. Ma poi i sacrifici sono per il Sole 24 Ore anche dalla sanità. Le poste più significative sul taglio dei costi della pubblica amministrazione arrivano dalla riduzione delle spese dei ministeri, ne parlava ieri il Sole, e da quello alla sanità. Risparmi consistenti anche dal capitolo pensioni, in particolare i tagli ai ministeri sono 1 miliardo nel 2012, 3,5 nel 2013, 5 miliardi nel 2014, mentre sulla sanità l'intervento vale 2,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014. Il Fatto Quotidiano a pagina 4 con Vittorio Malagutti dà un'interpretazione anche un po' dietrologa o chissà, comunque il Fatto la registra sulla questione dell'aumento dell'imposta di bollo, il rincaro da 34 rotti euro a 120 euro in un anno, favorisce la banca del Premier Mediolanum, perché, scrive il Fatto, la stangata del bollo sul deposito titoli avrà effetti concreti nei conti delle banche, alla fine verranno favoriti gli istituti che offrono conti di deposito vincolati, tipo Conto Arancio e CheBanca. Sarà un caso, scrive il Fatto, ma tra i gruppi finanziari che di recente hanno puntato alla grande su questo tipo di prodotti c'è anche Mediolanum. E dunque il Fatto la definisce l'ennesimo conflitto di interessi. Vabbè, in tutto questo, mentre la manovra mette un po' di mani in tasca, insomma, almeno nei correntisti e in chi ha preso i bot, che succede? Che c'era una proposta per eliminare di colpo le province, ieri in Parlamento, portata avanti dall'Italia dei Valori. La proposta è stata affossata anche con il voto contrario del Partito Democratico. Da qui l'ira di Di Pietro. Traditori al Partito Democratico. in primo piano. E allora Di Pietro dice ha vinto la casta, Di Pietro dice traditori anche al Partito Democratico, questo pare uscendo da Montecitorio arrabbiato perché una proposta di legge di abolizione delle province è stata dell'Italia dei Valori è stata affossato, province salvate da PDL Lega, decisiva l'astensione del PD. Così titola Repubblica, anche il manifesto a pagina 3, il PD resta provinciale. Tra l'altro c'è l'editoriale, questo da spunto all'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera di Gian Antonio Stella, le province degli ipocriti. Sibari, che chiede di diventare capoluogo vantandosi di produrre l'agrume migliore del mondo, le clementine, può tornare a sperare. Così Breno, 5.014 abitanti, capitale dei Camuni e della Val Camonica, e con loro Cassino, Guidonia, Bustarsizio e Nola, Pinerolo e Melfi, tutte le aspiranti metropoli che sognano di avere finalmente lo status. Cos'hanno meno di Tortolì e Lanusei, che capoluoghi già sono? La bocciatura alla Camera della proposta di legge costituzionale per sopprimere le province è il via libera ai cattivi pensieri, alle piccole megalomanie coltivate dai notabili locali. Così inizia l'editoriale di Gian Antonio Stella. Insomma, il tema è sempre quello, l'abbiamo sentito anche il Ger Rosi Bindi del PD a dire non era una proposta demagogica. Noi vogliamo abolire le province, ma insomma con un modo diverso, eccetera. Sta di fatto che province, salta il taglio, l'opposizione si spacca, anche per il Corriere della Sera non passa la proposta dell'Italia dei Valori, il PD si astiene. Tra l'altro su questi costi anche il giornale, e lo fa con un editoriale di Vittorio Feltri, il giornale ha iniziato una campagna su dove sono gli sprechi per il quotidiano diretto da Sallusti. Dove si buttano i soldi è la seconda puntata, così bruciano 600 milioni, oggi ci si concentra su un gran classico, i forestali in Calabria che costano il doppio dei ranger del Canada. Vabbè, questa è una storia un po' vecchia, ritirata fuori, per la verità. E poi, come è cara Venezia, un vanto che ci costa 386 milioni di euro. A pagina 3, Gian Maria De Francesco, questa è la cifra che solo quest'anno quattro ministeri verseranno per assicurare la conservazione della città. E l'editoriale di Vittorio Feltri dal titolo prima di toccare le pensioni tagliate i costi della politica. L'interrogativo è meritevole di risposta. Perché gli eccessivi costi delle amministrazioni pubbliche, cioè della politica, non sono stati limati prima delle pensioni? Così chiede Vittorio Feltri nell'editoriale. E questo l'ampia pagina dedicata alla manovra. C'è per quel che riguarda qualche notizia di cronaca, andiamo a vederla. Sicuramente la notizia di cronaca che ha preso tutte le prime pagine dei giornali è questa esecuzione in quartiere Prati a Roma. Una vicenda davvero incredibile sulla quale rispunta l'ombra della banda della Magliana, si esercitano poi vari giornalisti, scrittori, Goffredo Buccini sul Corriere, Carlo Bonini su Repubblica, ma anche il Messaggero racconta di questa esecuzione di un gioielliere e di come ritorni, rispunti il mai sopito capitolo della banda della Magliana a Roma, certo, che ha ispirato un libro di successo, un film, una fiction anche di grande successo, anche di grande fascino, no? Del fascino del male, ma certo ci sono tanti bei racconti, se volete, di quello che però in realtà è una tragedia avvenuta ieri a Roma, un'esecuzione in piena piazza pubblica nei confronti di una persona che già qualche mese fa era stata presa di mira, in quel caso gambizzata con colpi di pistola. Come un'altra vicenda che c'è su tutte le prime pagine dei giornali, ne parla Roberto Galullo sul Sole 24 Ore, ne parla Repubblica, è la vicenda per cui è stato chiuso l'antico caffè Chigi a due passi dalla sede del governo, dove spesso andavano anche i politici di tutti i livelli. Perché? Beh, perché era affiliato, secondo la procura, era affiliato all''Ndrangheta. Era un locale riconducibile all'Andrina dei Gallico di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, in particolare due affiliati, Nicola Delfina e Domenico Greco. L'antico caffè Chigi di Piazza Colonna, ma anche altre 18 aziende con sedi in zone lussuose della capitale, è stato sequestrato. frequentatissimo ovviamente da politici anche per la sua vicinanza con Palazzo Chigi, visto da cui anche il nome, l'antico Caffè Chigi, non è il primo caso. Repubblica ricorda anche 2 anni fa la storia del Caffè de Paris, in pieno centro anche questo, riconducibile al clan degli Alvaro di Sinopoli, anche questo sequestrato. Oh, che dire, c'è qualche spazio per le ultime segnalazioni. Intanto vi annuncio che Dominique Strauss-Kahn dovrebbe essere liberato ormai definitivamente, forse oggi stesso. Vittorio Zucconi su Repubblica ripercorre tutte le vicende di questi 53 giorni, dalla vergogna allo champagne in 53 giorni. Per la verità, la prima volta ha brindato con un Brunello di Montalcino. 2 giorni fa. De Esche, la procura si arrende, niente prove, sarà liberato. E anche in prima pagina del Foglio c'è questa vicenda con lungo editoriale di prima pagina: il procuratore in cerca di pubblicità rischia la testa nel caso di De Esche, cioè Cyrus Vance Jr., colui che ha istruito il caso e che ha dovuto fare una clamorosa marcia indietro perché la testa si è rivelata inattendibile, rischia a questo punto la testa. E poi, che dire, una cosa solo, la questione, attenzione, è spuntato lo squalo. Può esserci un'estate senza uno squalo? E invece no, è spuntato lo squalo. Attenti allo squalo al largo di Capraia. In pieno Mar Tirreno è stato avvistato il 21 giugno nel mare che separa Capraia dalla Corsica, a 6 miglia dalla costa, da un gruppo di biologi, uno squalo. E allora Libero a titolo "Attenti allo squalo". Il secolo XIX, squalo bianco, paura sulle spiagge. Ora ovviamente tutti sono pronti a dire no, ma attenzione, non fa niente lo squalo. L'assessore di Capraia dice chi ne parla fa terrorismo, c'è gravi danni di rischio al turismo. Sta di fatto che è spuntato lo squalo. Attenti allo squalo. 24 mattino, l'intervista. Alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui, voglio salutare il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Sindacato dei Magistrati, Giuseppe Cascini. Buongiorno e ben ritrovato, Cascini. Buongiorno. Senta, vogliamo parlare intanto di questa norma che è durata in realtà 24 ore, 48 ore, quanto si vuole, così ribattezzata Salva Fininvest all'interno della manovra. Intanto anche lei la definirebbe una norma ad aziendam, anche se è stata tolta peraltro. Guardi, io non amo queste definizioni, mi domando quante sono oggi in Italia le cause di un valore superiore a 20 milioni che siano in appello, prossime alla sentenza di appello, e quindi a quanti casi si possa applicare questa norma. Quello che trovo stravagante, anche se purtroppo a tante stravaganze ci siamo abituati in questi anni, è che in una manovra finanziaria che dovrebbe occuparsi dei conti dello Stato si inserisca una norma che favorisce il debitore insolvente rallentando il pagamento di un debito e quindi allungando i tempi di un processo. È una cosa francamente incomprensibile, se non appunto con l'esigenza di intervenire su una singola vicenda giudiziaria. Però se qualcuno fa notare, non è il principio in sé giusto, sui tempi, guardi, che tutti i giornali, anche i giornali vicini alla posizione del governo, dicono sui tempi è stata veramente una cosa, un'uscita clamorosa, ma il principio per cui si paga solo quando ci sono i 3 gradi di giudizio non è giusto secondo lei? No, è esattamente il contrario. Il problema che noi abbiamo in Italia è che la lentezza della giustizia civile favorisce il debitore insolvente, sì, cioè quello che non vuole pagare e dice fammi causa, così poi vorranno anni per essere pagato. E un rimedio a questo è il fatto che la sentenza è esecutiva già in primo grado e, salvo casi particolari, può essere sospesa. Prevedere invece che con i tempi lunghi della giustizia si paghi solo dopo il risultato diventa un incentivo per già tanti debitori che si sottraggono al pagamento di quanto dovuto, quindi è una causa di rallentamento ulteriore del sistema giudiziario. E in caso ci fosse invece in terzo grado di giudizio un ribaltamento delle prime 2 cause, la questione che pare ponga anche il premier Berlusconi è: chi mi garantisce che poi io, nel caso dovessi vincere il terzo caso, possa riavere indietro i soldi? Beh, questo è, come dire, tutte le controversie giudiziarie hanno questa possibilità, però vale per l'altra parte, che è in attesa da, in questo caso credo da 20 anni, sì, di una decisione giudiziaria avrebbe diritto a quei soldi e per 20 anni ne ha fatto a meno. Quindi qual è, che cosa è giusto e che cosa è ingiusto? Sicuramente è ingiusta la durata eccessiva di un processo, allora il governo forse si dovrebbe occupare di questo piuttosto che della vicenda personale del Presidente del Consiglio. Senta, in questi giorni il Parlamento dovrà decidere sulla richiesta d'arresto di un parlamentare, non entriamo nel merito della questione che non la riguarda, però il procuratore capo di Napoli ha detto qualche giorno fa un'uscita abbastanza forte, a dire la politica in genere si sente intoccata e intoccabile dalle inchieste della magistratura. Lei sottoscrive questa opinione? Guardi, io credo che noi abbiamo da troppi anni una tensione tra la politica e il mondo della giustizia. La mia opinione è che questo dipenda principalmente da un cattivo approccio che la politica ha col tema giudiziario, cioè con un'incapacità della politica di guardare al proprio interno in maniera severa, prescindendo in qualche modo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria e separando le due questioni. Il caso dell'onorevole Papa, che non a caso è anche un magistrato, secondo me è emblematico. Ci sono condotte e comportamenti dell'onorevole Papa che possono essere oggetto di un giudizio anche severo e anche critico, indipendentemente dalla valutazione della vicenda giudiziaria. Noi come Associazione Magistrati l'abbiamo fatto, abbiamo chiesto ai provvediri di valutare la compatibilità di certi comportamenti con l'appartenenza all'associazione, ripeto, indipendentemente dal fatto di dell'inchiesta, di come andrà avanti. Cioè, indipendentemente reato o no, il fatto di abitare in una casa pagata da un imprenditore per un magistrato, no? Può essere che non è reato, ma per noi è un comportamento che appanna l'immagine di indipendenza, di imparzialità. Ora, se la politica imparasse a fare i conti in casa propria, prescindendo dalle inchieste giudiziarie e dalla rilevanza penale, forse staremmo tutti meglio e saremmo tutti più tranquilli. Secondo lei personalmente è incompatibile la presenza di Papa, dell'onorevole Papa, nella magistratura, effettivamente anche un magistrato? Questo lo dovranno decidere i provvediri per quanto riguarda l'appartenenza all'Associazione Nazionale Magistrati. Io pongo una questione, dico, un magistrato la casa se la deve pagare da sé, non deve avere un appartamento pagato da un imprenditore che dice di aver paura di questo magistrato e delle sue capacità di interferire sulla sua vita. Questi sono fatti oggettivi, non sarà reato, non lo so, questo lo dovranno decidere i giudici con le regole del processo, però a me basta per dire che questi sono comportamenti lontani mille miglia dalla mia idea di essere magistrato. No, perché lei è anche il magistrato che sta, ripeto, senza voler entrare nel caso, sta indagando anche sulla vicenda invece che è su tutti i giornali, l'arresto dell'ENAC, che coinvolgerebbe, leggiamo dai giornali, anche esponenti politici, in questo caso di centrosinistra. Cioè il rapporto magistratura-politica, lei nota che quando si toccano interessi dei politici c'è una barriera da parte della politica nel tentativo di, non so, delegittimare i giudici, di attaccare? Guardi, non sempre è così, a volte c'è una attenzione autocritica da parte della politica su quanto emerge dalle inchieste. È ovvio che nessuno ha, come dire, piacere di essere sottoposto a un'inchiesta o sottoposto ad indagine. Credo che la politica abbia il dovere di guardare a se stessa e ai propri comportamenti e avviare un percorso di riflessione sulla questione morale molto più serio di quello che sia stato fatto fino ad oggi. Per concludere, mi faccia fare uno sguardo negli Stati Uniti, dove la vicenda Strauss-Kahn porta, secondo tutti i giornali, porterà a una fine della carriera del magistrato, del procuratore che ha istruito il caso, perché la testimone si è rivelata inattendibile, 50 giorni, una clamorosa retromarcia. Forse oggi Strauss-Kahn verrà addirittura liberato dopo anche la gogna, insomma, delle manette in pubblica piazza. Che ne pensa? Insomma, perché molti dicono in Italia il magistrato che sbaglia magari paga disciplinarmente, in America carriera finita. Guardi, questa vicenda ci segnala tutti i difetti di un sistema giudiziario che troppo affrettatamente viene spesso esaltato da noi. La figura del procuratore della Repubblica elettivo e quindi che deve rispondere al consenso popolare per poter fare carriera è una figura che spesso crea problemi e difficoltà. In questo caso la cosa è clamorosa. Un'inchiesta avviata a tambur battente con grande spettacolarizzazione per fare il colpo del secolo, che poi svela un errore clamoroso e che porta una marcia indietro e quindi a una sconfitta politica. Tutto questo però la giustizia c'entra poco, nel senso che noi non siamo ancora riusciti a capire se l'accusa era fondata o meno, perché per esempio le ragioni sulle, per le quali questa testimone viene ritenuta non attendibile sono ragioni che da noi varrebbero molto poco, no? Il fatto di aver mentito 20 anni prima o di essere, di avere cattive frequentazioni, cioè ci segnalano una serie di problemi di quel sistema giudiziario che dovrebbero far riflettere quanti lo indicano come un modello. Quanti dicono per esempio le elezioni dei magistrati. Certo, però perché però quando il fatto magistrato deve rispondere al consenso popolare, non sempre, come dire, segue un'idea di giustizia, segue più l'interesse alla propria immagine. Però sa, dottor Cascini, che molti lo indicano anche come esempio a dire: vedete, quel magistrato che ha sbagliato davvero pagherà, cioè la sua carriera sarà finita. Insomma, parliamoci chiaro, in Italia non accade. Certo, questo è il contraltare di un sistema di responsabilità politica del magistrato, però attenzione a non calcolare il fatto che la partenza di questa indagine ha anche in sé queste ragioni politiche e quindi portarsi dietro la responsabilità, ma anche in qualche modo la visibilità politica del magistrato, si porta dietro tutti i difetti. C'è un vizio dell'origine, un vizio originale. Perché se io devo rispondere dei miei errori, a quel punto le mie scelte saranno legate politicamente ai miei errori, le mie scelte saranno orientate anche dagli effetti che un'inchiesta può avere o meno. E quindi, per esempio, quando trovo politica mi fermo e sto molto più attento di quanto sto oggi, perché ho paura delle ripercussioni politiche delle mie iniziative giudiziarie. Quindi è molto ambigua questa scelta di far pesare la responsabilità sugli esiti delle proprie indagini. È molto più affidabile un sistema che lega al principio di legalità l'azione del pubblico ministero. Io su questo la fermo e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, ovviamente, buona giornata. Grazie a voi. Il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini. Noi ci fermiamo per parlare, dopo la pubblicità del Metro e il nostro sondaggio, allora di questa vicenda che dal comune di Firenze è rinata, è risorta, ma è sempre una diatriba vecchia, la questione della pausa caffè, della pausa sigaretta al lavoro. Se uno fa la pausa, caffè o sigaretta al lavoro, all'ufficio anagrafe del Comune di Firenze, deve timbrare il cartellino e poi recuperare i minuti persi. Che ne pensate? È giusto così? 24 mattino. 8:36 minuti, la disfida della pausa sigaretta, della pausa caffè. L'ultimo è il Comune di Firenze, che ha detto ai dipendenti dell'ufficio anagrafe, anzi se ci sono dipendenti 800 24 00 24, chiamateci. Ha detto: fate la pausa caffè, timbrate il cartellino e recuperate poi l'orario in chiusura. Che ne pensate? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, che ne pensate? È giusto così, cari ascoltatori? Lo vogliamo chiedere intanto al sociologo del lavoro Domenico De Masi. Professor De Masi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei insegna la Sapienza di Roma. Voglio salutare anche l'onorevole Gianluca Buonanno della Lega, ma in questo caso, onorevole, buongiorno. Buongiorno, come sindaco. Sì, come sindaco di Varallo, perché sapete che ha fatto il sindaco di Varallo qualche anno fa, cioè il qui presente Buonanno, che ha fatto, cioè per evitare le pause caffè? Praticamente avevo i dipendenti che sfruttavano un po' troppo la pausa caffè, sì. Si riunivano in 4-5 e quindi ho pensato di mettere la macchina del caffè all'interno del mio ufficio e quindi potevo vederli direttamente. Gli ho messo anche una bella scatola di biscotti, quindi ho cercato di dargli anche una mano e in combinazione è sceso il consumo del caffè del 50%. Vabbè, cioè il biscottino però sono un po' come no, il cagnolino, cioè ti do il biscottino. No, questo no. Ma però il discorso vero è questo: che se uno lavora negli uffici e arriva il cittadino che ha bisogno di qualcosa e quelli degli uffici sono in tre, tutti e tre vanno a prendere il caffè, questo non mi sta questo bene. È un problema. Non è che il cittadino è. Allora bisogna solo far capire che il buon senso è: vuoi prenderti il caffè, va bene, ci stai lì 3 minuti, 4 minuti. Però il sindaco ti guarda, sappi che il sindaco ti guarda, anche si può dire, sappi che il sindaco ti guarda in faccia. No, visto che anche i cittadini ti vorrebbero dare, diciamo così, un calcio nel sedere, non te lo danno, e quindi è giusto comunque che tu capisca che non devi fare i tuoi porci comodi, devi pensare anche al cittadino. Con questo non significa che siamo all'era della schiavitù, no, però ma deve essere un giusto compromesso. Allora, dopo tra l'altro, no, è crollata questa situazione. Il 71% dei nostri ascoltatori si dice d'accordo con la scelta del Comune di Firenze. Voglio salutare anche Rossana Dettori, che è segretaria generale della Funzione Pubblica CGL. Buongiorno. Professor De Masi e poi Dettori. Professor De Masi, Firenze ha fatto così. Il sindaco qui, leghista, di Varallo Sesia, addirittura aveva messo la macchinetta nel suo ufficio, così li guardo in faccia, quelli che in 3 o 4 o 5 si trovano a bere il caffè. È un approccio sbagliato, professore, lei che di sociologia del lavoro è un maestro. Ma guardi, la sociologia del lavoro studia due cose per far funzionare bene le organizzazioni. Studia come si gestisce il tempo e come si gestisce lo spazio. Questa faccenda del tempo è cambiata molto proprio nel corso del tempo. Cioè, quando il lavoro era prevalentemente fisico, consisteva in attività come la catena di montaggio, dove in tot secondi si dovevano fare, o in tot minuti si dovevano fare tot bulloni, è chiaro che l'ingresso, la fine, le pause erano rigidissime, perché ogni minuto perso era perso non solo per il lavoratore, ma per tutti quelli che venivano a monte e tutti quelli che venivano a valle. Quando poi il lavoro è diventato intellettuale, le cose sono cambiate completamente. Noi stiamo parlando di lavoratori intellettuali, sì. Immagino. Sì, dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi, dipendenti, ma intellettuali, che fanno lavoro intellettuale. Il lavoro intellettuale serve per produrre idee, per produrre prestazioni che hanno una grande flessibilità e in alcuni casi addirittura della creatività richiedono per risolvere i problemi. A questo punto il problema del controllo non c'è più. Cioè, non si risponde allo stimolo, chiamiamolo così, alla paura del controllo, ma si risponde alla leva della motivazione. Sì. Il controllo sono capaci tutti di farlo. Sì. La motivazione è un fatto quasi scientifico, un fatto quasi artistico, è una cosa importante. Cioè, non si tratta di controllare i corpi, porto il corpo dentro l'ufficio dall'ora X all'ora Y. Ma si tratta di controllare le menti, i cervelli, i risultati. Sì. Quindi che cosa è successo? Che a partire da un certo periodo, diciamo almeno 20 anni fa, sono stati riciclati con una formazione molto attenta migliaia, milioni di manager, sì. Perché imparassero a gestire non più con il controllo ma con la motivazione. Io capisco che i sindaci insomma non si sentono manager e quindi non fanno corsi di formazione. Il risultato è che stanno puntando tutto sul controllo e il controllo da una parte rende presenti i corpi, diciamo, sì, così. Sì. Dall'altro demotiva i cervelli, che però voglio dire dall'aspetto di dire come dice un sindaco entra in un ufficio, in questo caso ufficio anagrafe di Firenze, ma il sindaco Renzi ha detto voglio estenderlo a tutto comune, entra uno a fare una pratica, se si trova nella situazione di 3 o 4 persone che sono a bere il caffè magari è un problema. Ma vorrei, Rossana Dettori, che ne pensa della decisione di Firenze o anche del sindaco Bonanno, che dice insomma qua non è che si può stare a perdere tempo. Uno fa la sua legittima, prevista pausa per il caffè e la sigaretta, poi recupera, poi lavora. Francamente penso che sia una banalizzazione del problema, nel senso che non è facendo timbrare il cartellino all'impiegato che va a prendere il caffè che si recupera efficienza della pubblica amministrazione. Perché si mette sempre in discussione la pausa dei dipendenti, poi mai provato, perché sembra che questi dipendenti invece di lavorare 6 ore ne lavorino 4, perché a sentire sembra che stiano perennemente in pausa a caffè. I cittadini poi è evidente che dicono che va bene, perché si scarica su questo, sul fatto che i dipendenti sono tutti a prendere il caffè in contemporanea all'inefficienza dei servizi. Io penso che il cittadino sarebbe molto più interessato ad avere un servizio in cui vai e in breve tempo riesci a svolgere tutte le pratiche che devi fare invece di girare per 8 sportelli diversi e accettare magari anche con disponibilità, come succede a tutti noi quando andiamo negli altri paesi. Io sono stato in Inghilterra e lì è ufficiale il quarto d'ora di pausa, cioè il personale esce proprio con la tazza del tè e non mi pare che c'è Un'inefficienza, lei dice un falso problema. Su questo, onorevole Bonanno, sindaco Bonanno, effettivamente pensare che l'efficienza della pubblica amministrazione si risolva, o della pubblica amministrazione, ma si parla, può parlare anche delle aziende private, dove magari vengono regolate in alcuni casi le pause, che si risolva con la pausa caffè 5 minuti, 10 minuti, o mettendo la macchinetta vicino al sindaco, non è proprio così, insomma. No, ovviamente non è che questo risolve, però è un segnale, cioè se io vado in un ufficio e devo aspettare perché ci sono tre persone che sono andate a prendersi il caffè e chiacchierare e devo aspettare io, non va bene, almeno l'intelligenza di dire va bene, due vanno e uno rimane, però visto che c'è in collegamento la sindacalista della CGIL, sì, io sì. Dico che una delle colpe è proprio del sindacato, io faccio sindaco da 18 anni, la CGIL insieme agli altri sindacati sono incapaci e non capiscono che loro generalizzano tutto, e cioè quello che è l'impiegato che si dà da fare, che è consapevole, che usa il buon senso, è pagato esattamente uguale al fannullone, e loro quando c'è da dare, diciamo così, i premi tra virgolette per i lavoratori, tendono sempre ad equiparare tutti, cioè vogliono pagare il fannullone e dare il premio a quello che si impegna. Allora quello che si impegna dice, giustamente, ma che sono cretino io che devo farmi in quattro mentre l'altro si guarda Facebook o fa la settimana enemmistica, eccetera. Quindi diamo le medaglie a chi se lo merita e diamo un calcio nel sedere a chi fa nullone. Invece la CGIL per prima difende tutto, anche l'indifendibile. Io ho beccato chi faceva la spesa, che l'ho preso come simbolo, andava a fare la spesa anche per gli altri dipendenti. Cos'è venuto fuori? Che i primi che mi hanno rotto le scatole è stata proprio, sono stati sindacati anni fa, perché dicevano che io non potevo martoriare, tra virgolette, un dipendente che comunque era andato a fare la spesa al giorno di mercato durante l'orario di servizio. Allora, se queste cose non le capisce il sindacato, ma dove vogliamo andare? Non allora, è così che cresce il dipendente. Adesso le risponderà dopo il traffico, Rossana Dettori, ma la questione che le ha posto De Masi è che lei vuole controllare i corpi, no? Il controllo dei corpi, della presenza fisica, invece di lavorare sulla produttività, sulla formazione, sull'incentivazione. Teoricamente ragione, venisse in un comune gli verrebbe l'esaurimento nervoso, glielo assicuro io. A De Masi o a me? No. A entrambi, non so. A entrambi. De Masi, dopo il traffico anche lei, l'esaurimento nervoso se entra in un comune. Ma che vuol dire? Dipendenti dei comuni, chiamateci e difendetevi, insomma, qui c'è il sindaco, onorevole Bonanno, che vi sta dando conto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Intanto la replica di Rossana Dettori. Allora, ha sentito qui il sindaco Bonanno dice che difendete fannulloni e bravi, li mettete sullo stesso piano, no? Quando io ricordo al sindaco che le organizzazioni sindacali insieme alla rappresentanza dei sindaci al tavolo dell'ARAN hanno fatto insieme un contratto nazionale di lavoro che stabilisce le modalità per premiare la professionalità dei lavoratori, sì, quindi quando sì. Si fanno gli accordi si fanno insieme, per cui se lui ha prova che voleva premiare dei lavoratori che meritavano di più e noi non gliel'abbiamo permesso, lo dicesse, nel senso il suo direttore del personale probabilmente ha firmato l'accordo con le organizzazioni sindacali, perché da soli noi non possiamo dare i soldi come si sa, visto che non ce li fanno. Sì, ma io li premio nella maniera più assoluta, che devo premiare anche quelli che non fanno niente. Addirittura, perché li deve premiare quelli che non perché fanno perché alla fine c'è un fondo dove si danno soldi a tutti, è una schifezza, questo è un paese che ha delle mentalità da medioevo. Non so, De Masi vuole che lui non si ribelle a manovra del governo che gli taglia i soldi e lo costringerà a chiudere i servizi. Ma questa è un'altra storia. Vabbè, sì, effettivamente questo. Siete arretrati. Chi è arretrato? Cioè la CGIL è arretrata. Ma sì, perché fanno ragionamento. Uno che non fa niente e non lo riesce a licenziare, perché in Italia non licenzi neanche chi ruba. Quelli della Malpensa, ve li ricordate? Sono ancora lì che lavorano. Quelli che combinano guai, sono ancora lì che lavorano. Posso dire io ho avuto uno di che ha rubato 100 milioni in delle vecchie lire e dovuto dargli ancora dei soldi. È una vergogna. Vabbè, insomma, posso dire al sindaco che in Umbria, quando è stato scoperto che i lavoratori dell'ospedale, invece di stare in servizio, stavano a fare la spesa, la CGIL non solo ha denunciato il fatto, ma ha chiesto all'amministrazione di provvedere. Sì, io avevo letto che quelli erano stati reintegrati, ma forse mi sbaglio. Non so, sì, ma non l'abbiamo fatto no, noi. No, certo, c'è un giudice, vabbè, è chiaro, però, sì, no, vabbè, però noi abbiamo detto il risultato finale, il risultato, sì, vabbè, si è fatta giustizia, per il risultato finale, non certo perché la CGIL ha deciso, ma un giudice del lavoro che siano stati reintegrati, ricordavo così. Professor De Masi, non so se vuole entrare in questa sì, diatriba. No, certo, senz'altro. No, innanzitutto volevo dire al sindaco che io sono stato per 3 anni assessore. E mettendo in atto le cose ormai scientifiche, perché ci sono migliaia di ricerche, cioè quando si tratta di lavoro e di produttività si mettono in moto miliardi che si possono guadagnare o perdere, per cui le aziende ormai da oltre 30 anni conducono ricerche accuratissime sulla motivazione. Dal discorso che ho sentito mi pare che sia il sindaco sia il sindacalista sono proprio, diciamo, pregressi rispetto a queste ricerche. Fanno per esempio dipendere la motivazione dal premio economico. Il premio economico è una delle cose più micidiali per la motivazione. Il premio economico non c'entra niente con la motivazione. La motivazione dipende da 7-8 fattori. Poi se vogliono io sono disposto perfino a fare dei corsi gratuiti, diciamo, a queste persone che si occupano di questo, ma bisogna passare una visione moderna della motivazione che dipende da fattori che non costano una lira e che possono ottenere risultati straordinari. Premere sulla leva economica è un controsenso, non c'entra nulla. Ma laddove il sindaco Buonanno ci dice, professor De Masi, che tanto premere sulla leva economica, tra l'altro, porta a doverlo obbligare a dare soldi a tutti, perché poi non ho bene capito i cavilli, ma la legge poi. No, quello è diseducativo, ma è una parte minima rispetto ad altre leve che si possono usare e che dipendono tutte dalla capacità di fare i leader, di fare i manager. Quando si deve fare qualcosa attraverso altri, si mettono in moto dei problemi di carattere scientifico che vanno conosciuti. Si può fare il sindaco per 18 anni senza sapere questo. Io mi meraviglio proprio, devo dire la verità. Io vorrei sentire qualche ascoltatore, se siete rapidi, perché chiaramente l'argomento è molto di presa. Natalì da Udine, buongiorno. Buongiorno, io chiamo, sono una dipendente pubblica, sì. Sono a part time, per cui ho una situazione un po' privilegiata, però parlo per me e per le mie perché non colleghe. È un privilegio il part time, è una scelta che ha chiesto. È una scelta però, vabbè, è stata riconosciuta. Che possiamo fare forse più noi dipendenti pubblici di altri. E il discorso è questo, io e le mie colleghe raramente riusciamo a fare la pausa caffè e le dirò che io, per dire, se devo andare al bagno, praticamente vado al bagno dopo le mie 4 ore di lavoro, dopo che ho timbrato, perché durante l'orario di lavoro è previsto questo dal suo... No, non è previsto questo, no. È previsto un po' dalla nostra coscienza e dalla mole di lavoro che abbiamo. Noi, ripenso a quello che diceva il professore prima, noi non produciamo bulloni, produciamo benessere per la comunità, però le dirò che il tempo per pensare rispetto ad esempio ai progetti di individuali o di benessere per la comunità è ridottissimo. Cioè io rimango allibita su questo, forse perché chiamo da Udine, non lo so, e quindi non so, il nostro sistema è un po' più controllato per dire, però cioè, mi indigno ogni volta perché mi sento molto toccata anche anche in qualità di dipendente pubblico, che poi questo non vale solo per i dipendenti pubblici. Intanto la ringrazio Natalì, voglio andare a Roma da Pier Michele. Buongiorno Pier Michele. Buongiorno. Senta, io volevo dire semplicemente che mi sembra assurdo limitare tutto quanto alla presenza oraria. Sappiamo benissimo che la presenza oraria, ci sono tante unità di personale che entrano la mattina, timbrano regolarmente, escono regolarmente, poi durante la mattina non producono niente. No, ma non è che niente. Però è limitato a quello, non è limitato no, a quello. Problema, cioè... sono i dirigenti, secondo me. Cioè gli arretrati in Italia ci sono i dirigenti. Che non sanno dirigere, non sanno svolgere effettivamente il loro compito. No, però Pier Michele, non è che si vuole mettere a posto la pubblica amministrazione così, cioè si vuole con questo sistema eliminare chi fa le pause chilometriche, ecco. Certo, tutto. No, ma rientra ovviare ad un problema. L'importante per un dirigente non è verificare se fa una pausa di 5, di 10 o di 15 minuti, è verificare poi dopo l'efficienza e la bontà e la qualità del lavoro svolto. Sì, questo sì. Allora, questo vuol dire un impegno veramente molto No, ma questo non stiamo certo a dire che, voglio dire, che togliendo le pause caffè, questo neanche perfino Buonanno non pensa che controllando le pause caffè si risolva tutto, no? Onorevole Buonanno, questo. No, però, ma infatti, però... L'ha sentito De Masi a dire, è un po' retrograda, prenda De Masi, faccia fare dei corsi gratuiti. Se è gratuito lo voglio vararlo, così, se è gratuito non spendo neanche un soldo. Se è gratuito, però volevo dire allora a De Masi, non per vanto... Ma l'ultima volta sono stato votato con l'81%, quindi non penso di essere un sindaco. Tutte ste cose, no, no, tutte ste cose, tutte le volte tira fuori sta cosa, ma non è che l'81% che le va di merito, non è che la legittima fare qualsiasi cosa, tipo mettere la macchina. Voglio dire a De Masi che fare il sindaco significa comunque che il cittadino che paga gli stipendi dei dipendenti desidera avere dei dipendenti che comunque facciano qualcosa. Ci sono, ripeto, tanti dipendenti pubblici a cui dobbiamo dare la medaglia d'oro. Mm-hmm. Purtroppo però si difendono e si devono tenere anche i lavativi. Senta, e Buonanno, ce ne sono tanti. Ho dieci secondi, mi descriva... Parassiti addirittura. Buonanno, ho 10 secondi, mi descriva la faccia del primo dipendente del comune che è entrato nel suo ufficio a chiedere il biscottino e il caffè. Allora, bussato, mi fa, posso? E gli ho detto, ci mancherebbe, e la macchinetta è lì, c'è anche il biscottino. E i miei colleghi, gli ho detto, beh, se li vuol chiamare, bene, però uno alla volta. Allora, ha preso il caffè, ha preso il biscottino, durata dell'operazione circa 45 secondi. Oh. Prima, invece di 45 secondi, mediamente erano 10 minuti. Mm. E quindi dopo 6 mesi di questa situazione la macchinetta l'ho riportata dove era prima e c'è ancora oggi un cartello con scritto a buon intenditor poche parole, e da quel momento lì le cose sono migliorate parecchio. Il cittadino è più contento e i dipendenti fanno quello che devono e fare, fanno quelli la pausa che si comportano bene si comportano bene e quelli che si comportavano male si comportano un pochino va meglio. Va bene, grazie a tutti, andate su Facebook 24 mattino alla nostra pagina, c'è solo tempo per dire questo, Alessandro Longone, Elisabetta Fusconi in redazione e Paolo Corleoni oggi in regia. La linea Oscar Giannino, ci sentiamo domattina alle 7:20.